cosa dovevi fare. È che non lo trovavi se non c'era il video. Col video invece ho visto tutto e l'ho fatto, no? Adesso si spegne anche lo schermo, lo metto là vicini e quindi non puoi toccare niente e la telefonata prosegue finché non la chiudi tu. A me mi cadeva la linea subito, tac. Non puoi telefonare praticamente. E il telefono nuovo, comprato nuovo. Perché se non funziona il sensore di prossimità non va in schermata nera, quindi con l'orecchio magari tu toccavi i tasti, chiudevi la comunicazione, che cose varie, da. E io ti mettevo in attesa, un macello praticamente. Invece qua adesso si fa lo schermo nero e tutto, quando ho telefono, capito? Adesso è a posto, è un bellissimo telefono. Ok, io volevo comprarne uno oggi, invece no, li hanno finiti ieri, in un giorno li hanno tutti finiti, l'offerta che c'era qui da come si chiama? Da, di fronte al cimitero. Il supermercato che c'è di fronte al cimitero, non mi viene il nome adesso. Riprendi Giulio. Okay. Sì, beh certo, no, e a me lo stesso, io nel telefono ho diverse applicazioni, soprattutto per quanto riguarda lo sport. Infatti qualsiasi avvenimento che c'è in atto mi avvisa del risultato, mi avvisa dell'inizio, ad esempio, delle partite, mi avvisa, oltre al fatto che posso anche vedere nel telefonino le partite, mi avvisa anche quando finisce, se per caso io non le sto guardando, mi arrivano tutti i risultati, non solamente delle squadre italiane, ma di tante altre squadre straniere, inglesi, spagnoli, e dappertutto, insomma, e poi anche altri sport. Tutte queste applicazioni qua, per cui non c'è problema, anzi te lo di più, se io sto guardando una partita, per dire, non so, alla televisione, no? E ci sono in contemporanea, ci sono altre partite che stanno giocando, allora cosa succede? Che mi arriva il risultato magari di qualche altra partita che magari ha segnato una rete o che è stata annullata o che addirittura c'è un calcio di rigore, tutto aggiornato al momento, in diretta. Sì, ormai il cellulare è entrato nella nostra vita, c'è di tutto e di più, è diventata una cosa indispensabile, perché molto tanto mi sono dedicato al cellulare, vedi, 10 anni fa non succedeva niente, adesso se esci senza cellulare è come che tu sei senza patente o senza documenti di riconoscimento, è diventata una cosa, è guai se si rompe la linea telefonica perché non riusciamo a fare niente, perché ormai il numero a casa c'erano pochissima gente, un numero fisso, se si rompe, per dire, una connessione o si interrompe una cellula telefonica, siamo tutti fermi. L'altro giorno pensavo una cosa, per esempio il Green Pass ce l'abbiamo sul telefono, ma se si dovesse scaricare il telefono prima di entrare in ristorante siamo fottuti. Minimo. Ma io ce l'ho su carta, al limite io ce l'ho su carta anche, per cui non è un problema. Sono fatto scaricare qui da mia figlia il computer, per cui se dovesse capitare che il telefono si scarica, sarà difficile che io abbia il telefono scarico, molto difficile, perché quando esco prima di uscire controllo e poi al limite io ho la batteria di riserva, la batteria nel senso che è una batteria, voi immaginatevi, alta 10 cm all'incirca così, e se mi si scarica completamente la batteria, io attacco quella, attacco col suo cavettino e il telefonino è di nuovo attivo, non c'è problema. No, sono ben attrezzato, no, non c'è problema veramente. Poi vi dirò di più, quando riuscivo a dire un messaggio su WhatsApp, eccetera, non solo di averlo nel telefonino, ma mi si presenta anche sul tablet, per cui se io, per dire, non sono freddo o voglio rispondere oppure errore ho cancellato prima di dare la risposta, allora prendo il tablet e quella telefonata o quel messaggio ce l'ho sul tablet, non c'è problema. Allora, che roba. Sì, sì, ma a parte questo problema nostro del telefonino, il problema se tu vai alle poste o vai in banca e non c'è in linea, tu ne hai idea cosa succede, quante volte, non so se vi è mai capitato, non possiamo fare nessuna operazione perché non abbiamo linea. Ormai siamo obbligati, non esiste, i sistemi militari hanno le cose di riserva, gli ospedali ci sono i gruppi elettrogeni per l'energia elettrica, di lì se manca la luce, si ferma tutto, si ferma il mondo, perché tutto quello che c'è intorno al coso ormai, qualunque operazione viene fatta in via telematica e si blocca tutto, non abbiamo un'alternativa e questa è la preoccupazione mia. Sì, sì, in banca è capitato un sacco di volte di tornare a casa senza aver fatto nessuna operazione, purtroppo è capitato parecchie volte. E cosa vuoi fare? Purtroppo ormai il cartaceo è stato tutto eliminato, è tutto digitalizzato. Avanti Natali. E in effetti l'unica cosa che mi lamento di questo telefono che è troppo grande, è molto più grande di quello che avevo prima, però è bello come telefono, è un Redmi 9, uno della Xiaomi, è bellino e funziona pure, è un bel veloce. Sì, c'è la mia moglie, glielo Xiaomi Redmi 9, 9T, quello che c'è mia moglie. Però una volta gli si è bloccato anche a lei, gli si è bruciato qualche cosa, perché ha perso tutte le foto, forse qualche problema alla scheda madre. È in garanzia, l'hanno riparato, non sostituito, anche se ce l'aveva pochi giorni. Però è un bel telefono, pesante perché c'è un bello schermo, è un televisione 6,7 pollici. E in più c'è una batteria che è da 4.500-5.000 mAh, quindi è una bella bestia. Avanti Giulio. Ok, beh certo. Sì, ma ormai il telefonino chi è che non ce l'ha? Ce l'ha dei bambini. Sì, poi io ce l'ho 20 anni, non è che ce l'ho da lui. Da quando ha iniziato l'era del telefonino io ce l'ho subito avuto. Ma ne ho telefonini, ne avrò, senza esagerare, una decina più o meno. Facciamo addirittura il telefonino, il primissimo telefonino, quello che io lo chiamo cabina telefonica, di quello proprio grande, con l'antennino, eccetera, eccetera. Pensa un po', proprio il primissimo telefono, e ce l'ho sempre, tutti funzionanti, anche da poco mi se ne è aggiunto anche un altro, o anche quello dei vecchi vecchi, delle persone anziane, veramente, come la mia madre, ad esempio, o anche quel telefonino lì, di mia madre. Bello, nuovo nuovo, veramente un bel telefono. Per dire, oggi il telefono che non ce l'ha, tutti ce l'hanno. Avanti, vabbè. Sì, sì, ormai è diventata una cosa indispensabile. No, il primo telefonino me l'hanno regalato quando mi sono sposato, nel 95, e c'avevi le batterie che duravano mezz'ora, cacchio, lo storno della Motorola, e il display semplicissimo, niente di più rispetto a vedere quelli che abbiamo adesso. E poi ci porto, quando uscivo, perché non ce l'avevo l'autonomia, mi dovevo prendere le batterie aggiuntive che erano il doppio di quelle lì, e te le portavi appresso, e erano telefonini ridicoli pensando adesso. Poi erano tutta la serie della MicroTac, la Startup, eccetera, ha avuto decine. Io addirittura ho il telefono satellitare, a me me l'ha regalato un amico e adesso vabbè sarebbe anche superato, perché con i telefoni normali puoi telefonare in tutto il mondo, ma allora ti trovavi in mare, cacchio, in qualunque parte del mondo, una valigetta piccolina, dai, non dico proprio 24 ore, una mezza 24 ore c'era un telefono della Telecom con una scheda particolare satellitare e parlavi con tutto il mondo. E ce l'ho ancora, non ho mai utilizzato perché a parte questa, la telefonata costava 3 euro al minuto, una cifra spaventosa, e dopodiché è un barrasone, però è una cosa che mi hanno regalato e ci tengo, visto che sono appassionato. Ok, avanti, a chi tocca, Natale, a te il mic. Sì, e io ne ho, cioè uno me l'ho venduto l'altro giorno, quello vecchio vecchio che avevo, Samsung, e poi ne ho altri due a tastiera, un Samsung e un Nokia, di quelli vecchi vecchi brutti. Ma tu c'hai una pedivella, c'hai a telefono, cosa stai dicendo? Tu hai una pedivella in mano, le pick up. E stai tu, e stai zitto tu, Luca Pugioni, cosa vuoi, di qualche numero di telefono? E poi c'è il Samsung A20, il rosso, Luca mi c'era. Ehi, Paoletto, ancora ce li hai? Sì, ma chi è che... non è Luca? Beh, quindi è una... No, come non è Luca? Non è lui? Luca, tu sei? Sì, buonasera a tutti, dai. No, voglio che metti andare telefonate, sei tu. No, no. E chi era? Falcone. Ehi, non so, già ho capito che era Falcone. Chi lo stava mettendo, non eri tu? Ah, sì, sì, certo. Dai, abbiamo fatto, io ho capito così. Già, Luca, avanti, Roberto. No, non mi sembrava, cioè, ho visto che però mi sembrava un po' più basso il segnale, no, era il segnale di Luca, perché avevo sentito il bip, ho detto, dove c'è questo che ha messo questa registrazione? E a me è capitato a proposito di registrazione in questa estate, parlando con questi tedeschi, che cacchiera, questo qua registrava quello che dicevo io, parlavo tre volte, lo ripeteva tre volte, ogni cosa che dicevo lui lo ripeteva tre volte, ha detto, vedo il divertimento. E dove ti è capitato? E qua su, non so se è canale 12, 11, non mi ricordo cosa, io parlavo con altri tedeschi, si parlava in inglese, dai, quel poco che riesco a parlare, e questo, come parlavo io, registrava, lo rimandava. E il motivo? E non ne so, così là lui, cazzo. No, non mi è mai capitato, dai. Avanti, Giulio. Comunque, ben entrato, Luca. Quella lì è la batteria ausiliare, anche a te l'ho mandata, o fra. Per dire, no, in caso di necessità io attacco quello e mi può alimentare sia il telefonino sia il tablet, eccetera, eccetera, con la batteria lì. Quella, se per caso dovesse essercene bisogno, me la porto appresso e ce l'ho e basta, e io posso sempre telefonare. Ok, avanti. Radio forse. No, non è Luca, più forte il segnale di questo. Luca! Qua è 9.15, Luca è la 9.05. Qua è forte. No, c'è Luca. Luca, non stai uscendo di radio? No, che non ha sollevato Luca. Luca è la 9.05, questo è 9.15. Il bip sembrava il suo. Qualcuno che non riesce a uscire, vabbè. No problem. No, mio fratello invece prima di me lui aveva preso, un amico gli aveva regalato, non so se vi ricordate, quelli che faceva dall'Alpine, eccetera, eccetera, quei telefonini che era proprio una cornetta telefonica, ti mettevi in macchina e dietro c'avevi l'amplificatore, c'avevano mi pare 10 watt, una cosa spaventosa, che con quelli fortissimo parlavi a lunghissime distanze, quando ancora non c'era il sistema ETAX e cose del genere, parliamo ancora proprio agli alburi della telefonia, ma quello era una bomba. Poi non so se c'era ancora uno di quei telefoni. Che va? Sì, questo è un buonasera Roberto, buonasera anche a tutta la ruota, che ho raggiunto l'operatore Claudio qui a Calimuro. Buonasera Roberto, mi prendi? Allora eri tu che non stavi uscendo, Claudio. Negativo, no, che avevo segnale 101, non ero io, Roberto, io sono entrato però in bicicletta, sono entrato adesso, sono entrato a casa e non ho approfittato di entrare adesso, giusto per era un pochettino peluzzino un po' più di te, tu sei quasi 9.15 e quello era 9.15. Comunque buonasera da parte mia, c'è Giulio dall'altra parte, Franco, Luca e Natalia, facciamo girare a Giulio che poi passerà il mic a Franco. Avanti Giulio. Ok, ciao Claudio, ben entrato. Sì, vabbè, la portante che non usciva era 9.5 da me, evidentemente qualche microfono un po' in avaria, sicuramente così. Avanti, ci picchia. Natalia, mi hanno dimenticato il tuo nome, vai Natalia. Natalia è passato, avanti Franco. Capa, mi è partito il PDT. Ciao, ben entrato. Claudio, ben sentito per stasera. Volevo dire, c'è anche Natalino, poi c'è Roberto, Giulio, mi sa non c'è manca, è Luca, vediamo se Luca c'è, Luca, negativo, riprendi Claudio, buona buonasera. Sì, grazie per il mic, così buonasera a te, buonasera a Giulio, ben ascoltati, sì, io sono ritirato adesso, ero in bicicletta, mi sono fatto una passeggiatina di 43 km qua nei dintorni, vicino a Floave, con la zona lì, e poi me ne sono tornato a casa, me ne sono, e ho fatto un pochettino di allenamento, e l'ho acceso adesso, infatti, sembra strano che non stanno uscendo, e se lo io perché usano il corpo. sì, sì, assolutamente, che non eri tu, infatti stavi fatto, e quando stavi parlando quel segnalino, pip, ti ha appena scavalcato per un attimo, pensiamo che c'è qualcuno che magari non riesce a uscire, comunque se vuoi venire avanti ti rilancio il mic, se no rimani dove sei e riprende il mic Franco, avanti chi vuole entrare, nulla, di nuovo a te Franco. Sì, magari ascoltare con questo segnale 9.35 a sentire Claudio, magari, vabbè non ci sa mai nella vita, avanti Giulio. Ok, beh certo. No, ma io stavo pensando, probabilmente ha qualche problema natalino, perché non risponde, il segnale era praticamente come il suo. Forse che sia lui che ha qualche problema al microfono. Adesso io non vorrei sbagliarmi, ma sicuramente così. E allora Claudio, ti hai fatto una quarantina di chilometri in bicicletta? Bella passeggiata quella, Quale bicicletta usi? Da corsa oppure da passeggio? Com'è? Giulio, la corsa, non fa cantere, ho capito, non ci vi sento, due legnano, no, tre legnano, una da sistemare, due bianchi, ciò di quelle sopra la corsa, ci ho comprato una nuovissima di bianchi di quelle ultima generazione in cartonio, capito, ho fatto il cambio campagnolo, capito, mi sono comprato anche le cucine, tutto con lo sponsor della Bianchi, veramente bello, Giulio, sì, io sono molto appassionato di ciclismo, mi piace molto, conosco il gruppo, facciamo anche sui 150 km quando siamo super allenati, e adesso ne sto facendo la metà, ne sto facendo 55-57 km massimo, perché l'anno scorso ero molto più allenato, invece quest'anno sto uscendo poco, anche perché quelli che sono con me sono indaffarati con il lavoro e quindi hanno pochissimo tempo, però la sera una cinquantina me la faccio molto più in giro di chilometri, anche perché mi rilassa, capito, e poi quando rientro mi trovo alla radio, quanto, capito, oggi mi ho fatto un 43 di chilometri, capito, e mi sono molto divertito, anche se stava bene, anche perché mi ho approfittato, uscire oggi, dovevo uscire, dovevo uscire, però oggi sono uscito perché ho detto che domenica ha messo acqua, e quindi non si sa mai, ho detto che piova, e per fare almeno un'uscita alla settimana, sono uscito oggi, Giulio, quindi, Franco. Sì, casa positiva, domenica ha messo l'acqua purtroppo. E, se non sbaglio, come si chiama? Antonio l'altro giorno ha fatto da Florina sino a Stintino, Claudio, e ritorno. Non oso pensare quando che ho siano, ma penso parecchi. Avanti Roberto. Allora io ho un cliente d'officina, questo appassionatissimo, questo è tutti i giorni, lo sai quanti chilometri, questo c'ha più di 70 anni quest'uomo, adesso ho che croce 74-75, lo sai quanti chilometri fa in un anno? Quando me l'ha detto non ci volevo credere, 15.000 chilometri in un anno in bicicletta. Proprio non è che in macchina li fa. E non sto scherzando, quando mi ha detto vai che non vi credo, e c'è gente che ne fa più, c'è gente che ne fa molto di più di me, agonisti, quelli che fanno le gare, dice io sono grandetto, non ne faccio più, diminuisco, però quello non penso che si faccia meno di 70-80 km al giorno, tutti i giorni dell'anno, anche se piove, lui il giorno di Natale si fa quei chilometri, se li fa sempre. Ma è un tipo piccoletto? No, aspetta normale, abita vicino a dove abito io e lavorava alla Fiat, questo un venditore della Fiat da quando ero ragazzo, io sono 74, ma può essere che ne abbia qualcuno in più di anni questo uomo, però è allenatissimo, in forma splendida, e questo sempre in bicicletta, sempre in bicicletta. Vabbè, io lo vado sempre in bicicletta, quindi, però mi sembra un po' piccoletto, però è assiduo questo qua, lo vedo anch'io spesso e volentieri, esce qui da Sassari, passa sul cavallo. Sul cavalca ferrovia, e poi non so dove va, però lo vedo parecchio, ed è grandetto, penso che sia sui 65-70 anni, penso, vediamo un po' se sei Natalino ci sei? Sì, ero io che ho problemi alla connessione microfonica dell'altro apparato, non riuscivo a uscire. Dai, è importantissima la trapazza. E quindi ha azzeccato Giulio, Sì, se sbaglia Giulio mi è chiuso tutto. Però ti sei abbassato il segnale, Natale. Il segnale? Sempre quello lì, non ho toccato nulla qua. Va bene, dai. Ok, di nuovo a Claudio Lamuroso che poi farà girare per Giulio. Ancora qualche minuto io qua in frequenza e poi si va a mangiare la pappa. Vai Claudio. Sì, capa, QSL. Perché sono anche le 19.55, sono subito le 8. Io mi sono entrato giustamente per provarmi la radio perché il contatto mi piace tosto. Dovevo entrare ieri, però non ci sono riuscito a metterci le 25, perché non è compatibile con super side e tutto, mi metto, lo compro, e oppure uno di un cammino normale, soprattutto per di metterlo, perché è una radio americana, questo, quindi ci tengo a usarla con microfono americano, beh, capito, e la canale di cammino, però la cui sono da sistemare adesso, vedo un po', e sì, riguardo al discorso della bici, sì, ce ne sono, ovviamente ci pigli anche 2-30 anni, sì, che fanno molto forte, e a cosa fanno con Antonio, è uscito stamattina, ho visto su strada, ha pubblicato un giro, è uscito con un ciclista di Florina, su un ragazzino che sta andando molto forte, mi sa che su fatto di prestazioni, è un fulmine praticamente, per è più giovane, non è questo, è cavolo, sta andando forte quest'anno, e mi sta facendo come la mela in pratica, e tanto di cappello proprio, pensando che il ragazzino sta andando veramente forte, mi ha anche superato, e sono usciti sì, stamattina e hanno fatto un 30 km con i due turni, hanno fatto, mi sono superato, e niente, là, rilancio a Giulio, fino a Giulio. Ok, Claudio, sì, ma è una bella attività, andare in, con la bicicletta è una bellissima attività, che a me piace molto la bicicletta, io ce l'ho una bicicletta da passeggio, però sono anni che non la uso, anzi a dire la verità non è stata nemmeno donata mai con la bicicletta, perché se ha fatto molto avrò fatto se no 50 km in tutto, ma ce l'ho per parecchi anni, è nuova, nuova fiammante, veramente. L'unica cosa che dovrei fare adesso è cambiare le gomme, perché ormai le gomme non la vendono più usata, la bicicletta diciamo che non è che sono in ottime condizioni, sono nuove, non sono consumate, però tu lo sai, con passare del tempo la gomma chiaramente si rovina e allora bisognerebbero sostituire i copertoni. E per la cronaca volevo dire che il nostro ciclista sardo, il professionista, si è ritirato dalle corse. Stiamo parlando di Alu, perlomeno così mi è arrivata la notizia al baracchino, al telefonino mi è arrivata la notizia che Alu a 31 anni si è ritirato perché si vuole dedicare di più alla famiglia. E vabbè, peccato perché era un bravo ciclista, peccato i problemi che ha avuto alla gamba, e quello forse l'ha fatto prendere quella decisione di ritirarsi. Avanti Franco. Sì, non è stato molto, molto fortunato purtroppo. Vabbè, comunque, cioè, era nell'aria che si sarebbe ritirato dopo quest'ultimo, non mi ricordo che gara ci fosse da poco. Era nell'aria. Comunque io ho sentito che sono le 8, vi saluto, vi abbraccio tutti circolarmente. Claudio, Natalino, Luca, se ci dovete essere all'ascolto, Giulio, Roberto. Mi auguro di ascoltarvi alle prossimine. Ok? Avanti Roberto. Sì, anche io alcuni minuti sto aspettando che mi chiamino, comunque mi sentite anche a te, è sempre un piacere fare belle conversazioni con voi e con tutti gli altri, con te e con tutti gli altri. Ok, buon tutto, buon proseguo di serata, buona cena, eccetera, eccetera. Avanti Giulio. Ok, ciao Franco, grazie per la chiacchierata, un abbraccio, ci sentiamo quanto prima. Ok, avanti Natalino. Ok, ciao Fra, un abbraccio. Io ne approfitto per salutarvi tutti in quanto sto già cenando, perché io a quell'ora devo mangiare. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutoni a tutti e un abbraccio. Hai Claudio? Sì, questo è il riprendo io, sì, anche io saluto a Franco, quindi Franco mi ha fatto piacere, grazie del tuo show, buona carica, buon tutto e anche buon cuorestia, e ci sentiamo alle prossime, da quando coincide, passo io dentro più spesso, più frequenza, e niente, da alle prossime, riprendi Giulio. Ok, sì, anch'io sono molto chiuso, sono già alle 8, sto aspettando che mi chiamino anch'io, perché se sa, è solo questione di alcuni minuti, o addirittura di qualche minuto, comunque ancora non mi hanno chiamato, evidentemente non è pronto ancora. Va bene così, comunque, ripeto Claudio, la bicicletta è uno sport bellissimo, è faticoso, è sicuramente faticoso, però quando si è giovani come te è molto molto apprezzabile veramente, e sono contento per te che tu ti fai quelle passeggiate, perché anche a me mi sarebbe piaciuto fare le passeggiate, ma purtroppo io ho quasi 80 anni, ne ho 79 per la testa, e dunque non posso fare più quelle camminate lì perché non ce la farei. lavati robe. Ma tu l'hai fatto parecchio di bicicletta, mi ricordo, giù, o sbaglio? No, di bicicletta no, di atletica, di corsa, di marcia, anzi, anche corsa avevo fatto, e poi marcia, e anche calcio, calcio, corsa, marcia. Dalla corsa sono passato alla marcia perché in discesa mi venivano i crampi allo stomaco facendo corsa, cosa che invece con la marcia sarebbe dovuto essere ancora più difficile, invece a Casutrano la marcia non mi faceva niente, non ho avuto mai nessun disturbo, mai nessun infortunio, niente, e l'ho fatto per tanti anni. L'ultima gara che ho fatto avevo 43 anni. No, allora mi stavo confondendo, ho convintissimo che avessi fatto anche bici, perché all'epoca si andava sempre calcio, atletica e coso, e bicicletta. No, no, mi è sempre piaciuta la bicicletta da giovane, ce l'ho sempre avuta, l'ho sempre guidata, però come attività facevo atletica leggera, facevo la marcia, facevo, per cui non ai tempi di Pamici, eccetera, Pamici, di Agostino, tutta quella gente lì, per cui no, erano altri tempi, insomma, ecco, sto parlando di tantissimi anni fa. Va bene, comunque anche lì ho avuto qualche piccola soddisfazione, ce l'ho avuta anche lì. Mi è piaciuto fare dello sport, mi piace ancora, però oggi purtroppo sono anziano e non posso fare sforzi più di tanto, perché si sa, l'anzianità purtroppo ti costringe a non fare certi sforzi. Avanti Claudio. Infatti conosco molti ciclisti della zona che prima andavano in bicicletta e poi hanno dovuto appendere al chiodo per fermarsi, ovviamente, perché è sempre un rischio. Ce ne sono di uomini, cioè di ciclisti di 80 anni che vanno qua forte in bicicletta, io ne conosco uno che è più veloce di me, pensate, quindi ne sa, però vuol dire molto. E l'unica bici che non mi piace a me è la mountain bike, proprio lo crede, guarda, sono uscito l'anno scorso, ero in questo bosco vicino a Florinas e sono caduto, mi sono caduti 3 o 4 persone per terra, mi sono fatto anche male alla spalla perché c'era il fango, proprio la mountain bike, proprio la temo, perché è proprio pericolosa, è veramente pericolosa, guarda, è meglio la bici da strada, perché ho tirato certe cadute in mountain bike che guarda, non mi piace neanche a sederla, se la dovessi usare invece di fare le ferrate, faccio un pochettino di cose di strada, ecco, non entro nei boschi o queste cose qui, la uso poco e niente, la mountain bike proprio. Se ritorno al discorso di prima, sì, l'estate vuol dire sempre molto, praticare qualsiasi tipo di sport ovviamente, anche perché il ciclismo è uno sport molto faticoso, soprattutto all'inizio, quando uno sta iniziando e non ha allenamento, è sempre molto molto faticoso, bisogna fare dei sacrifici enormi, quindi fai una fatica bestia, quindi lo capisco. Sì, sì, è quello che credo che adesso sia molto grande, chiedo conferma a Giulio, tu ricordi quello che correva, vinceva sempre anche con gare di giovane, lui era molto più vecchio, più anziano, Maciucco, tu ricordi Giulio? Sì, me lo ricordo, sì, Maciucco era fortissimo, era un grande ciclista, è stato, però secondo me in Sardegna il numero uno è stato Umberto Mula, che io sto parlando di Umberto Mula, è quello dei supermercati, no? Mula dei supermercati, quello è molto, anche molto più grande di me, quello era veramente formidabile, era un ciclista straordinario, veramente forte, ma veramente forte. Io seguivo anche le sue corse, seguivo anche le volate che facevano in quegli anni lì, partivano da dove c'è il Conte Santa Maria, adesso dal fornitore, da lì la sera tutti i ciclisti dilettanti, non professionisti dilettanti, facevano le volate sino davanti alla stazione e facevano delle volate straordinarie, la sera la gente si metteva lì a vedere le volate, poi alla fine hanno scoperto i vigili urbani e l'indomani sulla Nuova Sardegna rischiano la vita i ciclisti di Corsovico. Da quel giorno c'erano le guardie, i vigili, e non hanno fatto fare più le volate, perché ne scendevano, minimo ne scendevano a 80-90 all'ora, lì da quella, prendevano la volata lassù sino davanti alla stazione o robe. Ma Germania, ma poi di quelli famosi, almeno di nome, c'era anche cosa, Florenzano, non è così giù? Sì, ce n'erano tanti, c'era al telefono, no, forse non è il mio, forse era il telefono giù, stavo dicendo, sì, c'erano tanti, c'era Cicino, Flaminio, di ciclisti, uno meglio dell'altro, tutti fortissimi, gente veramente forte. In quegli anni lì era il ciclismo, a Sassari era molto, ma molto attivo. Ecco che ha nominato Flaminio Sula, si sta dicendo, lo conosco molto bene. Un attimo, il break sta uscendo male, mi ha aggiunto la radio. Il break è registrato, però sta uscendo malissimo, è avanti comunque, le prezzi, è avanti il break. Non so se mi ascoltate, ciao, io non mi conoscete, mi chiamo Alfredo, volevo sapere un controllo come sta arrivando, grazie. Io il controllo te lo do, nella mia zona stai arrivando Santiago 9, però la radio non è buona, la radio no, non è buona. Vediamo cosa ti dicono gli amici, vai Robè, dai tu controlla questo amico. Ah, vorrei chiedere se Cristian, tu sei Cristian? No, negativo, no, non sono Cristian. Senti, ma la radio è tanto vibra o distorta? Guarda, sembri fuori frequenza, ci credi? Da dove stai modulando? Da Sassari. Da dove? Da Sassari. Dalla stazione? Da Sassari, ha detto, è trappata la radio è trappata. Adesso è meglio? No, non ha migliorato niente, è sempre trappata. Ho capito. Grazie, no, perché c'è un apparato con wifi e quindi ecco, forse è un po' fuori sintonia. Ecco, infatti te l'ha detto l'amico, te l'ha detto, non sembri proprio perfettamente in zona, evidentemente sei leggermente spostato o qualcosa del genere. Cerca di sistemarla, dai, chi sei intanto, dai, io sono Giulio, tu che sei? No, io mi chiamo Francesco, niente, Alfa Romeo è il mio nominativo. Ascolta, l'ho spostato un altro pochettino, ma non so se è meglio. No, non ha migliorato, non ha migliorato, io ti sento. Arrivo! Questo è il telefono che mi stanno chiamando da giù. Sì, arrivo! Stavo dicendo, la radio non è buona, prova a aggiustarla, si capisce, quello che dici si capisce, però non è pulita la radio, tutto lì. Vai, Robè. Allora, come è centrato le frequenze? Sei centrato, ho provato, sei centrato, anche se sembri fuori frequenza. Però mi devi dire di che zona di Sassari stai modulando? No, scusami, adesso stavo parlando un pochettino, praticamente all'altro. Stavo modulando praticamente per la stazione, ecco, all'incirca, la propria stazione, diciamo, via Sicilia, quella parte lì, ecco, all'incirca. Cavolo, stai arrivando poco fa alle 7, sei salito a 8, adesso sei sceso a 6 di segnale, però sembra che sei tipo quando a laterale, non sembri neanche in AM, non lo so, verificati che sei effettivamente in AM. Allora, questo è un apparato che c'è anche LSB, USB, però adesso c'ho il modulo ed è in AM, probabilmente non riesco a entrare perfettamente. Aspetta, questo è 27.075, praticamente siamo il canale 10, confermi. No, sei giusto, la frequenza, ti ho centrato, ho provato a centrarti, sei esattamente su 27.075, canale 10, però non so che problema c'hai, ma almeno c'è qualche problema al microfono, che magari è un vecchio microfono fermo da tanto tempo, per cui la capsula non riesce a vibrare come dovrebbe andare, per cui non riesce a farti sentire chiaramente. E se vuoi dirmi che radio stai usando e che microfono, e poi ti rilancio l'amico Claudio. Avanti di nuovo l'amico, che non ho capito il nome. Io Francesco, ascolta, no, probabilmente il microfono, ho provato un pochettino ad abbassare, non vorrei che sia troppo distorta, oppure probabilmente è da un po' che non lo usavo questo apparecchio, capito? Guarda, Santiago 7 il passaggio, radio potrebbe essere 5 se fosse chiara, però non è assolutamente chiara, è poco comprensibile, ma non per problemi di segnale di QRM, proprio perché c'è qualche problema di modulazione di lì. Vediamo se Claudio, penso di no, perché arrivi basso anche a me, penso che anche lui lui sia difficoltoso. Avanti Claudio, se hai ascoltato l'amico, credo Francesco, se non lo sbaglio. Avanti Claudio. No, scusa un attimo Claudio, dai, io devo chiudere, vi lascio che mi hanno chiamato per la cena, per cui vi devo lasciare il saluto. Ciao Roberto, ciao Claudio e ciao l'amico Francesco. Allora Francesco, tu dimmi una curiosità, se credi alla domanda che ti faccio, se mi vuoi dare questa risposta, ma tu chi sei? Romeo sei per caso? No, negativo, Francesco. Vabbè, no, pensavo che anche avevi dato un altro nome, vabbè, no, per niente, era solo una mia idea, perché ti ho rassomigliato ad un vecchio cibicchio, ho rassomigliato la voce, dai, era solo quello la domanda, niente di particolare. Ok, ciao Francesco, allora, ben ascoltato, non te lo posso dire, però mi ha fatto piacere sentirti, fatti sentire magari domani anche. Avremo modo di parlarne di più a riguardo della tua radio, eccetera. Ciao Roberto, salutoni, grazie per la chiacchierata. Ciao Claudio, saluti a tutti, scusa Claudio se ho preso il microfono dopo che te l'aveva rilanciato Roberto. Vai Claudio, ascolta fino a Dino di tutti e poi chiudo, vai. Di nuovo per il QSO, ci sentiamo alle prossime, buona carica e buon tutto, dai. Vediamo adesso di nuovo l'amico Francesco se riesce a migliorare la situazione. Ti ripeto Francesco, il segnale è discreto, Santiago 7 qua, arrivi, così andando in Viale Sicilia non è tanto, perché Franco va, riesce con qualcosina di più e con un'antenna migliore arriva a 9+20 in Viale Sicilia. Tu se sei in quelle condizioni lì e magari ho un'antenna un po' più meno performante o un apparecchio meno potente, ti rilascio il mic e mi fai sentire un po' se è migliorata la situazione. Avanti a te Francesco. Grazie Roberto per fare di chiaro, benissimo. Vorrei cambiare un altro microfono, ma non so, ce l'ho su adesso, non ce la faccio, volevo provare. Ma questo è un Sommercamp vecchio che ci avrebbe. È solo che deve essere, è un po' che non lo provavo e probabilmente c'ha qualche problema il microfono, hai ragione. È inutile, ho provato anche a centrare, la frequenza non c'entra, probabilmente è proprio il mic, capito? Ok, grazie, io vi ringrazio di tutto, saluto anche l'altro amico che lo sento basso, saluto Giulio e niente, grazie ancora e a presto a risentirci, ciao, grazie. Break. Registrato un attimino, sì, ciao Francesco, questo passaggio comunque è di molto più comprensibile, il segnale è più o meno 7, però probabilmente c'è un'antenna che non è molto efficace, dai, perché sennò dovresti arrivare molto, molto meglio da quelle direzioni lì. Comunque da Roberto da questa parte ti saluta, piacere ascoltarti, non dico benissimo, però ti ho tirato fuori, non c'è stato problema. Adesso rimango anche io qualche minuto perché mi sto aspettando che mi chiamano, facciamo entrare il break e che poi passerà il mic a Claudio Di Muro. Avanti il break. Capa, salutoni a te e anche a Francesco, ho capito bene. Antonio da Sassari, buonasera. Comunque questo Francesco era vicino a te e probabilmente ha attaccato anche a cosa? A Franco, perché ha detto Viale Sicilia. Oh, sì, che ha un bel bacio qua. E la Reghiccio. C'è anche Claudio Lamuro, se te lo rilancio. Avanti Antonio per Claudio. Vai Claudio per Antonio. Sì, questo è il salutoni Antonio. Sì. Passare un pochettino a basso, sì, con un Santiago di 4, la radio 5, comunque buonasera, ben sentito, ancora riprendi. Capa, ma dici a me, dici? Sì, è la pratica di più alto, dopo la macchina di Santiago 9 prima, adesso mi si è sceso, Santiago 4, sì, fino a me. Strano. Come sono da te? Sempre lo stesso. Alla meta dice? Eia. Ma che radio stai usando? È grande. E sei meno di 9,20, Antu. E come mai? Hola. Guarda ora a vedere. Allora, quando l'Europa le arriveranno per 25, però sei più basso del solito, c'ha ragione cosa, come si chiama? Claudio, controllati sempre l'alimentazione, che sia sempre quella la tensione nominale, e poi se c'è la possibilità verifica il cavi, connettore, antenne, eccetera. Stazionarie 1-1, stazionarie e potenza la stessa. Dai, è freddo, dai, e devi vedere quell'apparato che quando è freddo esce un po' meno. L'hai appena acceso, no? Così è. Capo, l'ho appena acceso, sì. Hola. Ma sta andando adesso? Sì, no, il segnale è forte, tanto, però è più basso del solito, ti ripeto. Lascialo scaldare un pochettino, così almeno si stabilizza termicamente e magari riusciamo a cosa. Allora, signori, io vi devo lasciare perché adesso devo andare a mangiare. Saluto Antonio che è appena entrato. Come al solito mi dispiace, non riusciamo mai a fare collegamenti un po' più lunghi. Poi Claudio Di Muro, dello stesso, anche a te, tu pare ti ha parlato un po' di più. E poi eventuali qua amici sul canale 10. Io faccio correttivi, se dopo coincide, se c'è qualcuno e mi viene la voglia, sarà un piacere riascoltare. Ci sentiamo, ciao, correttivi da parte mia. Ciao Roberto, sono qui da due giorni di buona carica quando la fai, ok, ci sentiamo alle prossime. Sì, infatti Antonio è più coso, più basso del solito, perché prima mi arrivava con un 9, 9, 5, arrivava oggi con un salto di 4, ma molto, molto strano, perché il risultato che dicevo con 9, 25, tutto, ok, Antonio è coso sempre un 4 oggi. Sono sempre gli stessi. Hola. Guarda a vedere adesso. Scusa, a chi non la fai con un guru, ma con di cadena? C'è uno che sta facendo la pernacchia. Sì, simpatico, ma non so anche un po' cosa potrebbe essere, perché sì, con un 125 è una cosa del genere adesso, però rispetto a prima un po' che si è sollevato, adesso va un po' meglio. Adesso si è calato, sono calato di nuovo, c'è qualche cosa che non sta andando, perché siamo sentiti di 9,95 mi arrivavo, infatti ho fatto anche, sì, calato di 3 tacche in pratica, quindi... No, non so, adesso provo ad attaccare quell'altro, provo ad attaccare, aspetta un attimino. Non lo so, no, aspetta, così a posto. Hola. Di Beggiani. Spero un attimo. Cazzo di coso. Vola. Va meglio adesso? Non lo so, per la verità io vedo le stazionarie che sono a posto, non so che dirti. Ah, ma vediamo un'antenna, aspetta che accendo la fila, sta a posto qua. E tu sei intera? Non lo so, no. Aspetta un attimo. Perché tu mi accendi un segnalone rispetto alla giornata dove ti trovi, mi arrivavi con un soltero nome che arrivavo, cioè sì, calato, in pratica di 3 tacche, di 3 tacche di smettere, ma è molto strano, c'hai qualcosa che non sta funzionando bene. Pimino, puoi aspettare due minuti? Me lo fai questo piacere? Che attacco un altro apparecchio. Funziona tutto bene. Non lo so più niente, adesso si sentono 7, però rispetto a prima, come sentivi, sentivano 9, 5 modulati, adesso si sentono 7, 7. Non lo so, io vedo che anche l'amplificatore sta funzionando e tutto, ho guardato le stazionarie e va bene, vedo che sale anche abbastanza, sale. Sentiamo.